Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio e buon anno a tutti. Apriamo questa stagione del weekend di A Tempo di Sport. Non possiamo non aprire questa stagione di A Tempo di Sport del weekend con i nostri due grandi amori, i nostri due grandi cavalli di battaglia, e cioè il rugby e il basket. Partiamo dall'ovale e salutiamo subito Giacomo Bagnasco, che è qui vicino a me, davanti a me. Ciao Giacomo, buon Ciao anno. Ciao Carlo, buon anno a tutti. E parliamo di questo ovale. Sì, di questo ovale, provando a rileggere il 2008 che abbiamo vissuto, 2008 ovale, e ad immaginare sempre in termini ovali il 2009. Quanto al 2008, Giacomo, un anno, se parliamo di azzurro, poi parleremo anche di club, un anno non indimenticabile, insomma. Secondo me, tutto sommato, il minimo sindacale del cucchiaio di legno evitato nelle Sei Nazioni e un finale di stagione sempre azzurro che ha fatto molto discutere, che ha aperto diversi fronti di discussione. Giacomo. Sì, io penso che il finale di stagione sia quello che ha portato il bilancio complessivamente in rosso, nel senso che questa stagione era cominciata con un nuovo allenatore, Nick Mallett, che tecnicamente non si discute, CT del grande Sudafrica degli anni 90, 17 vittorie consecutive con il Sudafrica, un Tri Nations conquistato e così via. Si è trovato a gestire una squadra che non conosceva, il Sei Nazioni non è stato è stato un banco di prova molto difficile e non è stato un disastro, perché l'Italia ha giocato delle discrete partite e una è riuscita a vincerla all'ultimo minuto con il drop di mercato contro la Scozia. All'ultimo minuto gli italiani nella tournée estiva sono riusciti anche a battere l'Argentina in Argentina, dopo aver perso in maniera tutto sommato onorevole in casa del Sudafrica, hanno vinto in Argentina, quindi fino a questo punto si poteva essere moderatamente soddisfatti. È stata una vittoria importantissima quella contro i Pumas in casa loro, però attutita dal fatto che era il periodo degli europei di calcio, se non ricordo male, che era molto lontano, che non c'era la TV. Avessi potuto scegliere una partita da vincere con l'Argentina tutta la vita, quella di Torino davanti allo stadio pieno. Certo, anche perché sono 10 anni che l'Argentina, non dico tutti gli anni, però è venuta spesso dal 98 a oggi a giocare in Italia, e a parte appunto quella partita del 98 che perse a Piacenza, da allora ha sempre vinto in un periodo che forse non è dei più favorevoli per le squadre europee che affrontano queste formazioni che arrivano a giocarsi le loro chance in queste tournée di novembre. Però devo dire, gli argentini giocano quasi tutti nei campionati francesi e inglesi, quindi si trovano più o meno nella situazione degli italiani, mentre naturalmente i più favoriti sono Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, che in effetti a novembre sono venuti in Europa e hanno vinto quasi tutte le partite. A salvare l'onore è stato il Galles, che ha vinto l'ultimo incontro che aveva a disposizione con l'Australia. Galles che peraltro, lo ricordiamo, quest'anno, nell'anno appena concluso, ha vinto il Sei Nazioni, ha fatto il grande slam, ha in Shane Williams, quest'ala che sembra il manifesto anti-Kilo Rugby, il miglior giocatore dell'anno, quindi se c'era qualcuno che poteva salvare l'Europa era il Galles, per fortuna lo ha fatto. Poi parliamo anche del Galles, che rimane comunque la grande favorita anche per il Sei Nazioni, che va a cominciare, non dico tra qualche giorno, ma tra non moltissimo. Dunque eravamo arrivati nel ripercorrere l'anno azzurro a quella vittoria con la Scozia, drop di Marcato, e poi la trasferta nell'altro emisfero, sconfitto onorevole, vittoria sul campo dei Pumas, e fin lì il bilancio, la lancetta era sul verde. Anche perché potevamo pensare che ci fosse un trend che continuavamo a seguire e che poteva darci soddisfazioni in autunno. Ma a distanza di ormai più di un mese, cosa non ha funzionato invece nell'autunno horribilis del rugby azzurro? Ma intanto l'Italia, come le succede spesso, magari fa la prestazione migliore contro la squadra più difficile. Quindi contro l'Australia ha giocato bene, però l'Australia è sempre l'Australia, quindi una partita che poi si è giocata anche un po' sul filo degli episodi, e gli australiani l'hanno vinta a Padova. Da lì in poi c'è stato un calo, probabilmente anche psicologico. Nessuno accampa scusanti, però si dice spesso che gli italiani non fanno fatica a reggere 3 partite di questo livello in 3 fine settimana consecutivi. Naturalmente tutte le altre squadre, tutte le altre nazionali le giocano, quindi ci dovremo adeguare. Certo. contro l'Argentina probabilmente qualcosa non ha funzionato a livello psicologico. Avevamo parlato di Marcato prima, che ci aveva tolto le castagne dal fuoco contro la Scozia, che aveva segnato una trasformazione decisiva a Cordoba in giugno, che aveva giocato bene, aveva convinto contro l'Australia, e stavolta invece la coppia mediana non ha funzionato. Marcato è andato così e Canavosio forse è andato anche peggio. A questo punto la partita è stata brutta, e la partita è stata vinta da chi poteva mettere in campo il talento puro di qualche giocatore. Hernandez ha costruito l'azione della vittoria, però poi gli argentini sono stati anche più solidi dopo, certo, un primo tempo nel quale sembravano come mischia quasi in balia degli azzurri. E poi è arrivata il vero disastro con i Pacific Islanders, che era solo una selezione che non aveva mai vinto, una selezione che va anche per fare spettacolo, una selezione che poteva essere costruita su misura quantomeno per darci il contentino, e invece no, la prima vittoria della loro breve storia. Sì, loro avevano giocato finora 8 partite in tutto, avevano fatto una tournée nel 2004, una nel 2006, avevano perso da Francia e Inghilterra, con noi hanno vinto meritatamente. È una squadra che naturalmente non può avere grande intesa, anche se le individualità indubbiamente ci sono. Abbiamo visto domenica, abbiamo visto in una delle ultime partite dell'Heineken Cup, ad esempio, Bai, che è stato un giocatore decisivo contro l'Italia, a giocare una gran bella partita nel Clermont-Auvergne contro i campioni d'Europa del Munster, e ci sono tanti altri giocatori che sono rimasti in Europa, giocano in Francia, giocano in Inghilterra. Ottimi giocatori, ma non sono una squadra. E poi soprattutto, se tu pensi alle motivazioni, insomma, l'Italia in quella partita doveva avere grandi motivazioni perché veniva da 2 sconfitte, c'era comunque molto pubblico, c'era molta attenzione mediatica. Ed era quella la partita da vincere anche per dare qualcosa a della gente che ha voglia di rugby, e che, secondo me, poi ne parliamo con calma, però la grande ricchezza del rugby in questo momento è nel bacino di utenza della nazionale, è in quegli stadi tutti esauriti o quasi, che abbiamo visto nei test match autunnali. Questo è indubbio. Ho parlato recentemente con un dirigente del rugby di lungo corso, Sandro Pattarini, che fu anche consigliere federale negli anni 80, e lui, al di là delle considerazioni tecniche, si diceva veramente piacevolmente stupito da questo boom del rugby. Diceva: abbiamo fatto quasi 100.000 spettatori in 3 partite, qualche anno fa ci sarebbero volute 2, 3, 4 stagioni per arrivare a questi numeri. Questo è vero. È anche vero che la partita di Reggio Emilia con i Pacific Islanders si poteva forse provare a vincere puntando sulla mischia, perché nella mischia sicuramente l'Italia, come organizzazione, come giocatori, si poteva considerare superiore alla selezione degli uomini del Pacifico. Purtroppo la mischia affronterà dei problemi, e ne ha affrontati, altri ne dovrà affrontare, anche a causa delle nuove regole. Nuove regole che hanno tolto probabilmente agli azzurri alcune delle armi più affilate, e questa è una cosa che purtroppo sconteremo probabilmente anche nel Sei Nazioni. Sì, già abbiamo visto, no? Con questa regola tecnica della MOL che non si può più fare, penalizza gli azzurri che avevano in quello una delle, insomma, come dicevi tu, delle doti principali da mettere davanti ad avversari tecnicamente quasi sempre più forti di noi, Giacomo. Sì, ricordiamo questi carrettini che oltretutto esaltavano il pubblico e la squadra. Adesso sono ancora consentiti, però è anche consentito ai giocatori farli crollare. Oltretutto, cosa succede? Noi non li facciamo più, ogni tanto li subiamo addirittura, perché a sorpresa magari la squadra avversaria li fa, e lì bisogna essere pronti anche a mettere in atto le contromisure. Sì, comunque Sei Nazioni, anche qui poi ne discutiamo, un Sei Nazioni che affrontiamo, già ve la butto lì così Giacomo Bagnasco ci ragiona sopra, guardandolo dal buco della serratura e cominciando a spiare il 2009. Scozia-Irlanda possiamo giocarcela, correggimi se sbaglio, ma poi approfondiamo il discorso, però Scozia-Irlanda possiamo giocarcela. Sì, giusto? Direi di sì, anche perché con l'Irlanda giochiamo in casa, quindi dobbiamo a tutti i costi giocarcela. Francia e Galles no. E Francia e Galles ora come ora no, col Galles giochiamo in casa, quando il Galles è venuto in Italia per un paio di volte lo abbiamo anche battuto, però questa squadra francamente è lontana da noi. La Francia, sarebbe un gran bel miracolo battere la Francia. Inghilterra forse, però non riusciamo a toglierci di dosso il timore reverenziale nei confronti dei sudditi di Sua Maestà. E in più giochiamo a Twickenham, quindi... Mi sembra che pure sono in un pessimo momento. Secondo me una grande Italia potrebbe anche batterli, però penso che continuiamo a soffrire nei loro confronti, come peraltro ha ragione nei confronti degli All Blacks, una sorta di paura, di incapacità proprio di giocare al 100% e di credere fino in fondo nella possibilità di un sogno. Dopo il traffico riannodiamo subito i fili. Sempre vicino a me Giacomo Bagnasco, abbiamo deciso di aprire questa stagione dei weekend di A Tempo di Sport con le nostre due grandi passioni, cioè il rugby, ne parliamo ora, il basket, ne parleremo più tardi. Abbiamo anche l'ospite prima annunciato ed è Andrea Bongiovanni, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Ti coinvolgiamo subito nella discussione, stiamo ancora parlando siamo ancora sul 2008, ma tra poco traghettiamo all'anno che è appena iniziato, anche e soprattutto in salsa azzurra. Dicevamo io e Giacomo un bilancio in rosso se parliamo di rugby azzurro, ma proviamo a trovare anche qualche aspetto positivo. Io li trovo nella crescita di Marcato, un po' ondivaga questa crescita perché le ultime partite, soprattutto quella con l'Argentina, sono state negative. E nella conferma, tutto sommato, dei nostri punti di forza, al di là delle penalizzazioni regolamentari. Prima Giacomo ne parlava, queste nuovo regolamento che un po' ci penalizza nel gioco di mischia. Aspetti negativi, stiamo ancora aspettando, e lo aspetteremo, credo, correggimi se sbaglio, ancora per un pezzo, un numero 9 all'altezza. Poi i nostri tre quarti raramente reggono il confronto con avversari di altissimo livello. Aggiungiamo qualcosa, Andrea? No, credo che sia una sintesi molto precisa di quello che ha fatto vedere la stagione o l'anno 2008. Tra le note positive per il rugby di azzurro, in assoluto aggiungerei anche la nomina di Sergio Pariste tra i 5 candidati al premio di miglior giocatore dell'anno a livello mondiale. Sì. Non era mai successo per l'Italia, e al di là di come poi è finita, che Sergio non ha vinto il riconoscimento, però insomma... Credo che per tutto il movimento italiano questo sia stato un grande onore e una prova del fatto che, a differenza di quello che succedeva fino a pochi anni fa, adesso il rugby italiano conta anche a livello internazionale, oltre ai risultati che può ottenere, insomma, a dimostrazione del fatto che comunque un posto nelle prime 10 potenze mondiali è meritato. Giustamente dicevi le cose negative, la mancanza di un mediano di mischia ancora all'altezza, sicuramente. Credo che anche il 2008 abbia evidenziato il fatto che la mischia è una mischia di tutto rispetto, di grandissime potenzialità, perché come è successo, pur mancando spesso per infortunio diversi giocatori, da ultimo mi viene di pensare a Castro Giovanni o Della Pe, per esempio, che hanno fatto le tre partite di novembre per infortunio, comunque sia la mischia è in grado di proporre alternative e giocatori di gran classe, di grande livello. Dietro, viceversa, siamo carenti sia nei titolari sia nei rincalzi. E questo è il limite strutturale di questa nazionale. Certo, limite da colmare, e purtroppo da colmare con grande pazienza. Ti faccio una domanda difficile, Andrea. Ti convince totalmente il lavoro di Nick Mallett? Poi sentiamo sull'argomento anche Giacomo Bagnasco. Ma prima Andrea Bongiovanni. Dire totalmente sarebbe eccessivo e anche sbagliato alla luce appunto del suo bilancio di questa prima stagione a guida della nazionale. Sapevamo che il compito suo non sarebbe stato facile, forse però era lecito attendersi anche qualcosa di più. Credo che aveva cominciato discretamente nelle Sei Nazioni, bene nelle due partite della tournée primaverile, perché comunque aveva tenuto il campo in Sudafrica e addirittura era andato a vincere in Argentina, quindi insomma un risultato eclatante. Viceversa, nelle tre partite di novembre forse qualche responsabilità l'ha anche lui per i tre risultati negativi che sono arrivati. Sarebbe un discorso lungo, insomma i motivi sono tanti. Io credo che al di là di tutto vada ricordato che lui per esempio è il primo allenatore sudafricano della nostra nazionale. Adattarsi alla nostra realtà non è semplice in nessun caso, per nessuno, per chiunque arrivasse dall'estero. Lui in particolare, per quanto abbia tantissime esperienze dei campionati europei, si è trovato in una realtà completamente nuova per lui, benché 25 anni fa avesse giocato a Rovigo, insomma, sì. Era un altro rugby, un'altra epoca, e quindi insomma che secondo me sta pagando anche questo scotto, e una mentalità sua completamente diversa, rivolta da sempre al vero professionismo, che qui in Italia ancora non c'è. Si è spesso lamentato della situazione che ha trovato, ma che sapeva anche di trovare, ha proposto delle soluzioni, vediamo se si ha il coraggio di andargli dietro. Giacomo. Beh sì, sicuramente i risultati non parlano in maniera univoca a favore di Mallet. Quello che abbiamo notato probabilmente fin dalle prime partite è una sua ricerca che riguarda tre dei cinque giocatori che, secondo quanto si dice sempre, compongono la spina dorsale di una squadra. Si dice che una squadra forte deve avere cinque elementi forti, tanto per cominciare, che sono il tallonatore, il numero 8, i due mediani e l'estremo. Quanto al tallonatore, al numero 8, quanto alla mischia in generale, come ricordava anche ad Andrea, ci sono anche i ricambi e la situazione non è preoccupante, anche se farebbe piacere vedere magari qualche giovane in più che può diciamo insidiare il posto a qualche titolare. Ecco, qualche titolare che si trova a giocare o a essere quasi sicuro di giocare c'è, e questo non è mai un bene. Per gli altri tre ruoli c'è una ricerca da parte di Mallet che finora non ha dato esiti soddisfacenti. Credo che il primo a non essere soddisfatto sia lui, e credo che sia anche difficile fargliene completamente una colpa visto il materiale umano a disposizione. Certo, c'è il caso di Masi che un po' lascia pensare, perché Masi, con quella che poteva essere anche una felice intuizione, è stato schierato a mediano d'apertura per tutto il Sei Nazioni. E alla fine si è capito che questo non era il suo ruolo, nonostante il grandissimo apporto in fase difensiva dato da questo giocatore. Lui sicuramente sperava da adesso in poi di essere schierato centro, invece ha giocato estremo questi tre test match e anche qui non ha dato il meglio di sé. Vedremo, anche se effettivamente non è forse Masi estremo il problema maggiore di questa squadra. Io vorrei ricordare, l'avevamo forse già detto in altre circostanze, che due anni fa, nel 2006, nei test match di novembre, l'Italia giocò due partite in casa contro Argentina e Australia, le perse entrambe con molti rimpianti. L'allenatore era Berbizier, che era al timone da un anno. L'anno dopo fece un grande Sei Nazioni, il migliore Sei Nazioni della storia azzurra, con le vittorie in casa col Galles, la vittoria esterna con la Scozia. Adesso siamo più o meno nella stessa situazione. Possiamo anche augurarci che l'Italia fiorisca, anche se, questo lo dobbiamo dire con tutta franchezza, il mediano di mischia di allora si chiamava Alessandro Troncon, certo. E fece un Sei Nazioni indimenticabile. Ecco, qui c'è uno dei nodi che non riusciamo tanto a sciogliere. C'è, tra gli aspetti positivi, Andrea Bongiovanni, l'aspetto più positivo e l'aspetto da difendere a tutti i costi, con qualunque tipo di mischia e di arma, sono le folle vere per la partita della nazionale. Quello è il vero patrimonio che il rugby, con un sacco di fatica, si è costruito benissimo, con grande intelligenza, con grande costanza, usando anche qui tante armi, compresa quella del far conoscere le sue facce in mille maniere. Però quello è il patrimonio vero da difendere a tutti i costi. Indubbiamente, direi anche che alle volte è persino sorprendente, no? Vedere stadi esauriti, stadi pieni, proprio per quello che poi la nazionale riesce ad offrire in termini di risultati. Sì, è un patrimonio che va assolutamente conservato, e la speranza appunto è quella che al di là dei risultati il fenomeno possa continuare. Proprio sono esempi positivi per tanti sport trovare tutta questa partecipazione festosa, nel senso che al di là di come poi finisca la partita o il torneo, insomma, i tifosi restano tali, restano molto appassionati, molto positivi. Ricorderò ad esempio per sempre, credo, l'esultanza del pubblico di Torino alla meta azzurra in chiusura della partita contro l'Argentina. Partita giocata malissimo, risultato deciso prestissimo. Eppure su quella meta di Masi 25.000 persone hanno esultato come se quasi l'Italia avesse vinto una Coppa del Mondo o qualcosa del genere. Questo è sintomatico dell'affetto che c'è nei confronti di questa squadra, è un fenomeno che si è giustamente coltivato negli anni, che in questo momento fa sì che il rugby abbia delle potenzialità enormi, al di là di quelli appunto che sono i risultati della nazionale. La nazionale resta al traino di tutto il movimento, e lo dimostrano i grandi numeri che è capace di fare ogni volta che scende in campo. Sì, io vorrei aggiungere una cosa, facendo proprio un salto netto, passando dal vertice alla base della piramide del rugby italiano. lasciando da parte tutto quello che c'è in mezzo, se c'è una cosa che veramente ci fa ben sperare questa volta nel lungo termine, è che i vivai stanno vivendo un grandissimo momento. Vivai floridi, tanti bambini, ma anche tanti genitori che si avvicinano, in parte conoscendo già questa disciplina e soprattutto apprezzandone i valori. Da qui effettivamente si può partire per pensare che l'Italia possa diventare, se non una potenza, un paese di rugby a tutti gli effetti. Sì, mi tocca anche qui fare la mala lingua, però. Effetto volano prodotto dalla nazionale, prodotto da quelle grandi folle che si radunano, ormai si accampano intorno alla nazionale. Però Andrea Bongiovanni diceva, a prescindere dai risultati, Andrea, però siamo in Italia. Se servi sempre delle onorevoli sconfitte, la gente poi si stufa. Lo temo anch'io, nel senso, appunto, bisogna vedere se la tendenza non muta, non cambia, se il fenomeno potrà continuare, nel senso che evidentemente alle partite nazionali spesso arrivano neofiti, gente che magari arriva al rugby per la primissima volta, ben disposta, che ha voglia di divertirsi e che al risultato è interessata soltanto in maniera relativa. Bisognerà vedere se gli stessi spettatori, nell'eventualità in cui la nazionale non dovesse cominciare a vincere qualcosa di serio e importante, siano nuovamente attratti da questo spettacolo fino a se stesso, a questo punto, perché appunto i risultati non arrivano. Però è anche vero, come diceva Giacomo, che la base si sta allargando sia nei vivai ma sia addirittura nel numero di società che crescono, che emergono, che magari si affacciano al rugby per la prima volta, e non solo nelle regioni tradizionali ma anche in parte d'Italia dove fino a pochi mesi fa, pochi anni fa, il rugby magari non mai era neanche arrivato, insomma. E questo è sintomatico delle potenzialità che il movimento ha e che addirittura esploderebbero qualora veramente l'Italia dovesse riuscire ad aggiudicarsi l'organizzazione di una delle due coppe del mondo del 2015 e del 2019. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Grazie davvero ad Andrea Bongiovanni, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Con Giacomo Bagnasco vorrei chiudere con una curiosità. Prima hai detto, Giacomo, aspettando che l'Italia fiorisca, ma davvero secondo te quest'Italia ha margini di crescita così rapidi da poter puntare ad un 6 nazioni, non ti dico al livello di quello che citavi prima, ma di un 6 nazioni un po' più brillante di quello passato? Ma sai, il rugby in generale ci ha abituato a dei cambi di gerarchie, dei cambi di rendimento anche fulminei. E quindi la speranza c'è. Certo che vediamo squadre che un anno arrivano ultime nelle 6 nazioni, l'anno dopo lo vincono, però sono squadre che hanno dei serbatoi che noi non abbiamo. Quindi diciamo che essere ottimisti a tutti i costi adesso non avrebbe senso, però che questa squadra possa fare dei passi avanti è lecito sperarlo, forse obbligatorio. Grazie Giacomo, alla prossima. Dopo aver parlato di rugby, ecco l'altra nostra grande passione, l'altro sport che tanto spazio occupa nei nostri cuori e nel nostro palinsesto, cioè il basket. Ne parliamo subito e lo facciamo con Massimo Oriani, inviato della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Massimo. Ciao, grazie anche a te. Per guardarci un po' alle spalle al 2008 che è finito, al 2009 che sta per cominciare, quindi cominciare a guardare avanti. 2008, l'anno del flop azzurro se ce n'è uno, e delle Olimpiadi degli altri, ciò che ha fatto più male di tutto. Si dice sempre che da quando tocchi il fondo poi risali. Bisogna vedere se il fondo l'abbiamo toccato o deve ancora arrivare. Può anche grattare il fondo del barile e vedersi qualcosa ancora sotto. Speriamo di no. Tu cosa dici? Mi sembra che hai detto benissimo tu. Il problema più grosso è stato, la delusione più grossa è stata la mancata partecipazione alle Olimpiadi, anche perché è stata un'Olimpiade, per quanto riguarda il torneo di basket, straordinaria, con una finale che credo passerà alla storia come una delle più belle partite a livello internazionale che si siano mai disputate, con gli Stati Uniti che finalmente sono tornati a fare gli Stati Uniti, giocando con la testa, perché il talento l'hanno sempre avuto, i problemi erano altri in passato, sono stati problemi di supponenza, di scarsa preparazione, di scarsa conoscenza degli avversari. E con una Spagna invece ha confermato di essere sicuramente la nazione più forte a livello continentale, anche se l'anno prima aveva perso in casa la finale dell'Europeo, ma ci può stare, una partita secca può capitare. Noi eravamo lì a guardare, però... Con la nostra medaglia d'argento in mano, eh? Esatto, invece noi siamo rimasti a casa da quel punto di vista, la nazionale italiana, e peraltro è la giusta... voglio dire, non dico una punizione, ma è naturale per quello che sta esprimendo il basket italiano in questo momento, che la nazionale faccia fatica al punto magari poi di non qualificarsi per l'Europeo, perdendo con la Bulgaria, con squadre di una fascia che è sicuramente molto inferiore, almeno sulla carta, anche se poi le cose potrebbero essere cambiate ultimamente, non ci sono più proprio quelle vecchie squadre, sì, Materasso. Sì. Il problema resta che l'Italia, chiaramente non è l'Italia completa con Gallinari, Bargnani, Berinelli e anche Daniele Hackett. Però la domanda da porsi è: l'avremo mai questa nazionale? No, ma ce n'è anche un'altra parallela, Massimo. Non è l'Italia migliore con quelli che adesso albergano in America, però forse è anche un'Italia che ha perso un po' di appeal, se è vero, come è assolutamente vero, che molti giocatori, facciamo 25, hanno detto di no all'estate azzurra, nell'estate che è passata. Sì, sì, infatti il problema non è solamente l'assenza dei giocatori NBA o comunque NCAA, il problema è che c'è tanta gente che, come dicevi tu, ha preferito andare a farsi le vacanze al mare, riposarsi, e questo è un problema chiaramente che è facile ricondurre alla crisi generale del basket italiano, alla crisi istituzionale che è stata quella che ha caratterizzato un po' tutta, ma forse l'ultimo anno in assoluto di sicuro. Adesso arriva Meneghin, molto probabilmente fra un mesetto, e vediamo cosa potrà fare, ma il problema è che Dino Meneghin è una persona dal carisma straordinario, ha la volontà sicuramente di voler portare avanti un discorso in collaborazione con le leghe e con il resto delle istituzioni, ma si troverà di fronte a una situazione non facile da gestire, si troverà di fronte a delle decisioni da prendere, di pregresso, certo, di scheletri oramai. Difficilissima sarà il suo compito, certo. Facciamo gli auguri, ma sarà dura. Sarà dura, però si troverà anche davanti a delle decisioni da prendere, magari impopolari e magari improprio, contando solo sul suo carisma e sulla sua credibilità, io credo, a un certo punto. Non potrà fare altrimenti, credo, perché finiremo con ritrovarci dove eravamo, esatto, prima del suo arrivo. Poi le decisioni io spero che vengano prese da parte di Meneghin, chiaramente con l'aiuto anche di chi avrà al suo fianco, ma anche degli interlocutori, appunto soprattutto della Lega di Serie A, della Lega 2, perché se nessuno fa un passo in avanti per portare oltre alla propria disponibilità anche un aiuto concreto allo stesso Meneghin, ma che non sia solo nelle parole, vogliamo tutti fare qualcosa per il bene del basket italiano, poi quando viene chiesto a qualcuno di sacrificare qualcosa di proprio, no, momento, però io no, fai prima tu. Vai avanti tu che mi viene da ridere. Così, certo, non funziona però. Senti, tra gli elementi di debolezza della catena pallacanestro italiana, il 2008 è stato l'anno di Siena almeno per il campionato, il 2009 invece probabilmente pure. Sì. Questo è uno squadrone Siena, Eurolega nel mirino, quello che si vuole, squadre vento forse, se si può usare questa espressione, come lo è stata magari la grande, magari un gradino sotto aspettiamo l'Eurolega, però come la grande Milano di Pietrasone D'Antoni, come secondo me anche la Bologna di Messina, Rigado, Ginobili, eccetera, squadre evento. Fortissima Siena, però la sua forza è un elemento di debolezza per il nostro campionato. Da un certo punto di vista sì, chiaramente non bisogna dirlo a loro, perché loro sono ben felici che sia così ed è giusto che sia sì. La loro forza, forse la mancanza di un interlocutore vero, chiaramente per la pallacanestro italiana, per l'interesse della competizione, si sente questa mancanza, perché sarebbe bello creare dei dualismi, avere più squadre che possano lottare per lo scudetto, invece in questo momento sappiamo benissimo che l'unica cosa che può fare Siena è perderlo questo campionato, certo, perché certo. Non c'è nessuno, Roma doveva essere quella che sulla carta dopo la bella stagione dell'anno scorso avrebbe potuto dare fastidio a Siena, si è visto nell'inizio di stagione i problemi che hanno avuto. Io continuo a pensare che la Virtus Bologna sia una signora squadra. Sicuramente, anche lì però bisogna vedere, non è collaudata ad alti livelli, certo. Non sappiamo come risponde alla pressione di un playoff, adesso chiaramente ha avuto un inizio molto buono e ha tutte le carte in regola per essere una squadra che può arrivare anche in finale scudetto, però chiaramente stiamo sempre parlando di 2-3 gradini sotto a Siena. Siena in questo momento ha acquisito una mentalità anche che la porta a vincere tutte le partite che deve vincere, anche quelle magari dove non è così facile, sì, trovare la concentrazione e gli stimoli, certo. ha alle spalle una struttura che le permette di essere così quando scende in campo. No, certe volte dà l'impressione nel campionato italiano che corra contro se stesse, contro i propri ormai pochi limiti. Siena, Panathinaikos, Olympiakos e Zesca. C'è qualcuno che può smontare questo, stravolgere questo quartetto per Berlino, sede della finale di Eurolega? Difficile, difficile onestamente, perché anche le spagnole qualcosa, ma il Real Madrid chiaramente non è più la squadra, ma non lo è da parecchio tempo oramai, che può arrivare a questi livelli. Le due squadre greche sono quelle che hanno investito di più e che stanno raccogliendo anche di più in questa prima parte della stagione, e vediamo se riusciranno a confermarsi. CSKA mi sembra un po' meno forte forse dell'anno scorso, però ha una garanzia, cioè quella di avere giocatori che sanno vincere le partite nei momenti decisivi, uno su tutti Matias Modis, e poi in panchina il miglior allenatore d'Europa degli ultimi sicuramente 15 anni, sì, quantomeno, Ettore Messina. Forse qualcosa in più, ma volevo farti dopo la domanda, te la faccio subito. Il futuro di Ettore Messina può essere davvero in America? Lui dice di no, lo so, molti altri dicono di no, però a me questo giro di Toronto, no, che Vicenza Sam Mitchell, allenatore ormai al capolinea da diverso tempo, finalmente esautorato, non lo sostituisce, cioè va per una scelta di transizione. Questo mi ha fatto pensare alla possibilità di un Messina che torna da Gherardini. Ma molti hanno fatto questo calcolo 1 più 1, Messina, Gherardini, Toronto che non prende un allenatore per sostituire Triano, cioè ad interim. E va avanti così. È abbastanza semplice arrivare a questa conclusione, che peraltro potrebbe anche non essere quella sbagliata, perché io sono convinto che Ettore Messina, se deve, di fronte alla possibilità, di fronte a un bel contratto da firmare, ci penserebbe ben più di un minuto prima di dire no. Anzi, io sono convinto che se si arriverà a questa soluzione, Ettore potrà anche andarci. I problemi che potrà incontrare poi chiaramente sono tanti, perché Ettore Messina noi sappiamo chi è, e lui lì arriva in un ambiente dove Gherardini e Brian Colangelo, cioè il presidente della squadra, sì, lo stimano, lo ammirano, sanno benissimo chi è Messina. Chris Bosh, Jermaine O'Neal, Jamario Moon, Ettore Messina credo forse non l'abbiano mai sentito nominare in vita loro, sì, e andare e avere imporsi con l'autorità, il carisma di Ettore, con giocatori che non sanno neanche chi sia, quello potrebbe essere l'ostacolo. Lui però ha le capacità, le conoscenze non solo tecniche, ma proprio anche il carattere per poterlo fare, e sono sicuro che se deciderà un domani di andarci, andrà e farà molto bene. Io penso che 3 giorni di training camp e poi imparano a capire chi è Ettore Messina. Sì, tre magari pochi, facciamo 3 settimane di training camp e poi direi che lo conoscono. No, ma anche perché prima parlavamo di Siena che sfida i suoi limiti, anche Ettore sta sfidando i suoi limiti. Perché fondamentalmente più di così cosa può fare in Europa? Può tornare a una nazionale, può magari vincere un europeo, però è tutto un film già visto. Se la sfida dei grandi è quella con i propri limiti, l'approdo finale della carriera di Messina non può essere che da quell'altra parte, insomma. Sì, sfide da vincere in Europa oramai non ne ha più, anche se riprendere in mano una nazionale abbastanza conciata male come quella italiana in questo momento e portarla magari da qua al famoso 2014, quando si spera di avere i mondiali da queste parti, sarebbe un'altra vittoria non da poco. Però comunque è una cosa, come dici tu, in fondo da un certo punto di vista un fin già visto, qualcosa già fatto. La vera sfida sua è quella di andare in America e far bene là, e per uno che ha veramente stradominato il basket dalla panchina in questi ultimi anni, io credo che lo spirito competitivo di Ettore poi alla fine lo porterà poi ad andare ad accettare questa nuova sfida. Sì, prima o poi ci andrà, prima o poi ci arriverà, e io penso prima o poi la vincerà pure, perché così è questo signore. Massimo, hai ancora 2 minuti di tempo? Sicuramente. Allora ci fermiamo un attimo, sentiamo il traffico, subito dopo torniamo, anche perché insomma qualche altra cosa da chiarire c'è. Abbiamo parlato di Messina che si prepara, che forse andrà da quell'altra parte dell'oceano, ma adesso ne abbiamo 3 che hanno messo insieme una bella telenovela, no? C'è quello che fa troppa panchina, c'è quello che ha 20 anni ma ha più fortune di Matusalemme, e c'è quello che continua ad andare in altalena. Dicevamo, una bella telenovela quella che stanno scrivendo i nostri dall'altra parte dell'oceano, magari non fortunatissima. C'è quello che non gioca mai, Berinelli, che di recente peraltro sembra abbia cominciato a giocare, guarda caso dopo essersi finalmente lamentato. c'è quello che ha 20 anni e è infortunato fin dall'inizio, e c'è quello dell'altalena, Andrea Bargnani. C'è qualcos'altro, Massimo Oriani, inviato dalla Gazzetta dello Sport? No, purtroppo l'hai dipinta bene tu. Ne parlavamo non tanto tempo fa con Charlie Recalcati, che continua a dire che abbiamo tre italiani in NBA, sì, però sì, in realtà li abbiamo, ma non li abbiamo da un certo punto di vista, perché non è sufficiente averli a roster, in formazione, bisogna che siano giocatori che giocano, che soprattutto abbiano qualcosa da dire quando scendono in campo. Bellinelli purtroppo è finito in una situazione sfortunata, perché ha un allenatore, Don Nelson, che diciamo che ha smesso di allenare una decina d'anni fa. Esatto. E nessuno gliel'ha detto, purtroppo. Non l'hanno ancora avvisato, però la realtà è esatto, questa. Per cui non è facile, perché un giorno gli dice una cosa, il giorno dopo gli dice l'opposto, il terzo, sì, giorno si dimentica che ha Bellinelli in panchina, il quarto lo vede e dice: ah, caspita, ma ci sei anche tu, dai, forse che mi dai una mano. E la situazione può venire veramente in andamento schizofrenico per il povero Bellinelli. A Toronto Bargnani si è trovato travolto anche dagli eventi, perché appunto, come dicevi tu prima, la partenza di Mitchell era annunciatissima, perché Toronto l'avrebbe già cacciato l'anno che, ahimè, ai loro, ha vinto il titolo di allenatore dell'anno. Sì. Con Angelo e Gherardini erano pronti serenamente a cambiare allenatore, credo a puntare, se non fosse già allora su Messina, ma su Marchi Avaroni. Poi, finito a Memphis, il proprietario gli ha detto: no, non possiamo, un colpo dal punto di vista dell'immagine, cacciare l'allenatore che ha vinto il titolo di Coach of the Year, sono disposto a mangiarmi i soldi del contratto fra un anno, cosa che puntualmente è accaduta. Bargnani si è trovato con l'equivoco di passare l'estate a lavorare al Big Man Camp, a lavorare per diventare quantomeno un giocatore d'area, se non proprio un, sì, centro, ma un 4-5, diciamo. E poi si è trovato a giocare alla piccola. E poi si è trovato alla piccola marcando Paul Pierce, LeBron James, cercando di marcare, ovviamente con risultati disastrosi. Poi appena faceva due falli Germano Lillo, risportavano sotto canestro. Già Andrea non è uno proprio un leone da questo punto di vista. Se poi viene sballottato da un ruolo all'altro, da una posizione nel campo all'altra, all'interno stesso della partita, non è facile, ecco. Certo. Quanto al Gallo, invece, immagino che sia una bella scuola. Adesso non, in questo inizio di stagione praticamente non ha mai giocato, però l'essere a New York con tutta la pressione che c'è, l'essere la grande speranza giovane di New York, quei fischi il giorno della scelta, poi superati, dimenticati finché vuoi, però New York è come Milano nel suo piccolo, una città che ti mette un mare di pressione addosso. Credo che stia comunque imparando molto, poi vediamo di tradurre la lezione sul campo quando sarà il momento, però credo che dal punto di vista della crescita questo momento sia importante. Sì, ma sarebbe stato fondamentale giocare, anche perché New York ha giocato gran parte dell'inizio di stagione in sette, praticamente, sì, tra gli scambi, gli infortuni, la telenovela di Marbury. Avrebbe avuto un sacco di spazio, secondo me 25 minuti a partita li faceva facilmente, sì, Gallinari, e con la fiducia che gli dava D'Antoni, con il modo di giocare a 1000 all'ora, 7 secondi o meno, 7 seconds or less l'attacco, qui bisogna arrivare al tiro entro 7 secondi secondo l'idea di D'Antoni, l'avrebbe dato anche una visibilità negli Stati Uniti, perché avrebbe fatto cifre sicuramente buone. Il fatto di non aver mai messo piede in campo nella prima parte di stagione lo ha penalizzato non poco. La speranza è che lui sia riuscirà a risolvere i problemi fisici e a finalmente ricominciare a giocare a pallacanestro, anche perché, ritornando al discorso della nazionale, Bellinelli, Bargnani e il Gallo, se ci fossero quest'estate contro la Francia, magari una chance di andare a fare l'Europa in Polonia l'avremmo. Sì. Altrimenti mi sembra dura, perché sono sempre gli stessi che quest'estate hanno perso con la Bulgaria, e bravi loro ad esserci. Bravissimi loro ad esserci, tanto di cappello, però perdere con la Bulgaria risulta difficile, certo, è un po' difficile da dimenticare. Massimo, ti chiedo ancora questo, cosa ti piacerebbe, qual è la storia che ti piacerebbe raccontare nel 2009? Bella domanda, quella dell'Italia che si qualifica per l'europeo, perché in questo momento mi sembra tutto abbastanza scontato. Siena, sì, più o meno le squadre che hai detto tu in Eurolega, non ci sarebbero grosse sorprese. L'NBA con Boston e Lakers ancora, anche se Cleveland non scherza per nulla e potrebbe rinforzarsi e diventare una squadra che può anche battere Boston ad est, però non c'è nulla di clamorosamente così, di clamoroso, che ti, sì, stuzzica la fantasia. L'Italia che si qualifica all'europeo sarebbe un un colpo per il movimento non indifferente, vista la crisi che stiamo attraversando. Sì, il massimo del minimo, forse. Sì, il massimo del minimo, però bisogna anche essere più realisti del re e accontentarsi di quello che passa il convento in questo momento, che è questo. Grazie Massimo, buon lavoro. Grazie a voi, buon anno. A prestissimo con Massimo Oriani, dunque inviato della Gazzetta dello Sport. Abbiamo parlato di rugby, di basket. Io vorrei dedicare una chiusura alla pallavolo, soprattutto con un ospite illustre, autorevole e un amico come quello che è in linea, cioè Lorenzo Dallari, voce della pallavolo italiana, ma soprattutto vice direttore di Sky. Lorenzo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, buona pallavolo a tutti. Buona pallavolo anche a te. Parto dalla domanda che ho fatto alla fine a Oriani: qual è la storia che ti piacerebbe invece non scrivere ma raccontare, pallavolisticamente parlando, quest'anno? Quest'anno è un anno importante per quanto riguarda la nazionale, perché gli azzurri e le azzurre vengono da un'Olimpiade, possiamo dirlo, insomma, non entusiasmante, e conseguentemente io spererei che ci fosse un europeo trionfale in vista del prossimo mondiale, anche perché sarebbe un abbrivio importante per la rassegna di data che nel 2010, parlo di quella maschile, sarà sì, in Italia. Insomma, non è un mistero che il volano autentico del movimento pallavolistico sia rappresentato dalla nazionale in questo momento, dalle nazionali, al maschile e al femminile, e perciò io spero medaglia d'oro, una doppia medaglia d'oro per gli azzurri e per gli azzurri ai prossimi europei. Si torna sempre lì, l'abbiamo parlato prima col rugby e poi col basket, il volano di ogni movimento è quello azzurro e non ci sono discussioni, insomma. Per quanto riguarda il campionato, è il primo campionato, questo Lorenzo, che stiamo vivendo senza Milano e senza Roma. Io credo che le metropoli siano sempre troppo importanti per un movimento di vertice. Hai messo l'accento indiscutibilmente su quello che è il problema della pallavolo. Allora, questo è uno sport che indiscutibilmente vive della sana, grande, fantastica provincia italiana. Però il rovescio della medaglia è che le metropoli, soprattutto Roma e Milano, significano grande visibilità, significano i media, significano un'attenzione incredibile. Sicuramente la pallavolo manca in queste due città, a dire il vero manca anche a Genova, manca a Firenze, manca a Bologna, manca storicamente, manca però purtroppo in queste grandi città, e conseguentemente è più difficile avere una cassa di risonanza adeguata a quello che è un movimento sicuramente molto interessante, capillarmente raggiunge tutta Italia, però diciamo così manca la punta dell'iceberg. Quest'anno, con tutto il rispetto, Pineto che ha sostituito Milano, insomma non è Milano. Verona è una grande squadra, è stata ripescata al posto di Roma, però dobbiamo riconoscere che le due capitali italiane, una dell'industria e l'altra politica, sicuramente rappresentano un significato particolare, e questo è un handicap sicuramente per il volley. La capitale della Repubblica pallavolistica italiana è invece indiscutibilmente Treviso. Treviso che ha vissuto un avvio di stagione quasi shock, no Lorenzo? Treviso è una grande squadra. Sinceramente devo dire la verità, ha stupito anche me, perché ha una squadra fortissima nei suoi effettivi, ha una squadra che si era rinforzata ulteriormente con un grande palleggiatore come Riccardo, è una squadra che però ha palesato problemi che ovviamente erano radicati indipendentemente dalla presenza del precedente palleggiatore, che è il francese Pujol, che è tornato a casa. È una squadra un po' stanca nei suoi senatori, ecco, forse avrebbe bisogno di essere un po' rinnovata. Le grandi squadre hanno il coraggio ogni tanto di voltare pagina, e Treviso non l'ha ancora fatta. Credo che sia arrivato il momento invece di prendere questa decisione, che potrebbe essere anche clamorosa. Opatio e Cisolla credo che debbano cambiare aria. Sono due formidabili giocatori, hanno ancora molto da dare alla pallavolo, soprattutto Cisolla, però insomma lo sport di vertice è fatto di cicli, presumibilmente certo, per Treviso certo, un ciclo è finito. Certamente. Con due domande da farti, la prima riguarda Giampaolo Montali, dunque esportiamo Velasco che torna in Spagna, abbiamo grandi allenatori all'estero, c'è un grande allenatore come Giampaolo Montali che da un po' si sente solo citare come membro del consiglio di amministrazione della Juventus, perché? Giampaolo Montali è andato in rotta di collisione con il movimento della pallavolo, questo bisogna riconoscerlo, e conseguentemente a questo non ha trovato, soprattutto in Italia, più qualcuno disponibile a dargli credito. Bisogna però aggiungere un aspetto molto importante, che quasi mai ho letto essere messo in evidenza, o comunque anche ho sentito, ne approfitto per dirlo a tutti i vostri radioascoltatori che ovviamente sono grandi appassionati anche di sport. Giampaolo Montagli ha ancora in essere un contratto che lo lega alla Federazione Italiana Pallavolo. Cioè lui è ancora regolarmente, mensilmente retribuito quale allenatore della nazionale. In questo momento la Federazione paga due CT, una è Andrea Anastasi che è facente funzione, l'altro è Giampaolo Montagli che invece da qualche mese non svolge più regolarmente il suo lavoro. Non hanno fatto transazione, questo è anche il motivo vero per cui Montali non ha accettato soluzioni alternative, casomai ne siano arrivate, cioè lui ha ancora un contratto in essere con la federazione. Per chiudere, Lorenzo, so che è un lavoro in... ti lascio andare anche perché so che è un lavoro in uscita. Sì, allora, guarda, ne approfitto, ti ringrazio molto l'opportunità. Allora, come ogni anno, siamo all'anno numero 18, c'è la guida al volley, quest'anno in copertina c'è Risto Zlatanov, che l'anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato, gli manca solo lo scudetto per coronare una carriera veramente formidabile, giocatore di Piacenza, è il frutto di un lavoro incredibile, Certosino, come sempre tutto quanto fa Pallavolo, è un lavoro che ho imparato tanti anni fa facendo gli almanacchi della Panini, che esistono ancora. No? Mi fa molto piacere perché insomma un modo per raccontare la pallavolo storicamente, perché la storia fa parte del nostro DNA anche pallavolisticamente parlando, e tutti quelli che la vogliono ovviamente avere basta che vadano su dallarivolley.com, che è il mio sito, e lì si può vedere tutto quanto fa pallavolo, e poi ovviamente ci seguono su Sky perché andiamo avanti a raccontare tanta pallavolo maschile e femminile. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Grazie a te, buona pallavolo e buon anno a tutti, in particolar modo ovviamente ai pallavolisti e ai vostri ascoltatori che amano questo sport e lo sport in generale. Grazie davvero a Lorenzo Dallari, vice direttore di Sky. Così chiudiamo questo programma, grazie a Giacomo Spunta per il lavoro in regia, a Gigi Borghi in redazione. Alla prossima, cioè a domani.